Ah, basta? Basta. Ah, e poi fiato. Ti spiego. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. A ben pensarci, Drago, anche questa settimana, questa qua che stiamo vivendo, potrebbe essere considerata una settimana perineo. Ma come anche questa? Ma sì, a tutti gli effetti, ma Drago. Scusa, ma quante settimane perinee ci sono? Non ho capito. Settimane perineo, che settimane perinee? Perché? Plurale femminile di perineo è perinee. Vabbè, cosa vuol dire? La grammatica. Mica dici studentesse modelle, dici studentesse modello. Ah, è vero, anche se, come dire, cosa? Le studentesse modelle. Ecco, bravo Tito. No, Tito, lascia stare la Drago, scarpa. Comincia a fare come il cuoco di South Park. Lascia stare anche il cuoco di South Già Park. Già la parola studentessa lo porta a fantasie inenarrabili. Senti chi parla. Figuriamoci poi associando studentessa a perineo e modella. Vabbè, allora, anche, okay. Lasciamo perdere le studentesse, le modelli, i perinei. E che Dio abbia in gloria tutto questo ben di Dio. E spiegami che settimana perineo è mai questa, perché non l'ho capita. Perché molti sono ancora in vacanza, no? Ad esempio le studentesse modelle. Ad esempio. E poi la settimana tra Capodanno e l'Epifania. Ah, quindi... beh, certo. Tutte le settimane dell'anno vengono dopo una settimana e prima di un'altra settimana, quindi sono tutte perinee, non ho capito. Cioè... Ma Drago, si vedono anche i giornali. I giornali sono smilzi, non hanno notizie. Sì. Continuano a fare il bilancio del 2011, anche se ormai nessuno più vuole sentire parlare del 2011. Vabbè, ci credo. Il discorso di Napolitano, ad esempio, l'hanno analizzato tutti e credo che abbia più letteratura critica della Divina Commedia. Vabbè, perché Natalino è un discorso Sapegno. Importante, Drago. Dopo tutto quello che è successo quest'anno, dopo che Napolitano è diventato l'idolo delle folle, si attendeva molto dalle sue parole. E invece? Invece cosa? No, dico, invece Salvini, della Lega, il presente, sì. Lui ha detto che accidenti, se l'è perso perché era impegnato a preparare testuale il risotto con la salsiccia. Vabbè, e quindi è diventato... Calderoli ha paragonato a Napolitano accetto la qualunque, il personaggio di Albanese. Bossi gli ha dato del terun. Napolitano dritto. A Bossi avrebbe dovuto rispondere. E tu hai la bocca storta? Com'è? Ma che risposta era? Cioè, tu sei un terun e tu hai la bocca storta. La degna risposta alla provocazione di Bossi: sei un terun. E tu tieni la wok stort. No? Così è meglio. La wok stort. Come si dice? Non lo so. A wok stort. Ciao, Ioris. Ciao. 1, 2, 3, 4 E Alberto, c'è la bocca storta. Che Alberto, Umberto Bossi c'è la bocca storta. È uguale, vai, sembrava uguale. E Alberto, c'è la bocca storta. Assai. A bocca. A storta. A bocca, assai. Come i cocoriti. Bocca storta, assai, Umberto, tieni la bocca storta, assai. Baraglia! Baraglia! Baraglia! Però sai cosa ti dico? Che la politica in Italia è sopravvalutata. Ah. Anche qui è l'asilo. Ma forse è vero, sai, perché è così. In fondo non è così tanto interessante. Ma infatti politica, non lo è, non lo è. Ma guarda che sono i giornalisti che la rendono interessante. Sì. O perlomeno fanno in modo che sembri interessante. Facciamo uno scatto in avanti, Drago, ormai. Facciamo... Basta politica. Basta così. Politica. Però basta, scusami, se parliamo di stupidità, stupidaggini, stupidere, infantilismo, è come fare a meno della politica in Italia? Sì, ma è cominciato non si può... un anno nuovo, Drago. Quindi... Non è un anno come gli altri. Il 2012 rischia di essere l'ultimo anno dell'umanità. Ma quindi... vabbè. Adesso anche tu con la profezia Maya. Non proprio, insomma, con l'andazzo, con l'andazzo dei tempi. Può darsi, però sembra che non interessi più nessuno questa cosa dei Maya, perché due o tre anni fa Giacobbo parlava solo della fine del mondo. Sì. Ha pure scritto un libro zibaldone, pieno di collegamenti assurdi per far crescere la paranoia nei lettori. Però arrivati al dunque, cioè all'anno in questione 2012... Sembra che i problemi concreti abbiano superato di gran lunga quelli immaginari. Ma scusa, ti sembra immaginario che solo nel 2011 siano caduti i regimi fino ad ora solidissimi? Che non so, che il Giappone è stato devastato da uno tsunami, poi anche dall'incidente nucleare conseguente, e poi è morto Don Verzé. In effetti sono tragedie che hanno colpito l'umanità. Pensaci, no? Sì, ci penso. Anche il fatto che perfino Giorgio Bocca, Bocca Stuart, che dopo aver rotto le palle per 70 anni filati, improvvisamente ha deciso di salutare tutti e di migrare verso lidi migliori. È morto, cioè, No, anzi, è morto. Vabbè, è un chiaro segnale della fine del mondo, no? Allora, scusa, ma Bocca aveva 91 anni, proprio come Verzè, cioè sono stati giorni duri per i 91 anni, però c'entra? È normale che Drago, si muoia. Ma cosa c'entra l'età, Drago? Sono due simboli, no? Vabbè, ho capito. Uno dell'Italia partigiana e l'altro della Chiesa alla fine del mondo. Sì, molto alla fine del mondo. E morendo loro vengono a mancare i pilastri su cui si basava l'Italia contemporanea. Vabbè, questo basava lo dici tu, dai. L'Italia contemporanea. Io vivo benissimo anche senza Bocca, senza Don Verzè, senza tutti questi. E quindi sei tranquillo, cioè, 2012 sarà un anno come gli altri. Non lo so, spero di sì, cioè, però i segnali ci sono, quello è vero. Basta unire i puntini e il disegno viene fuori bello chiaro. Vabbè, poi bisogna vedere quali puntini decidi di unire e quali invece decidi di non unire, siamo sempre lì. Bravo! Senti, che Umberto Eco ti dice bravo, la pensi come lui? Che non crede ai segni, rimane sempre scettico. No, scusami, anche credere troppo ai segni confina pericolosamente con la stupidità. E io sono ossessionato dalla stupidità. No, ma dalla tua stupidità o da quella degli altri? Beh. E ora, bambini, ricreazione. Joris. Ciao Alberto. Ciao, io adesso devo fare un freestyling, no? Che se io sono freestyler, faccio il freestyling, adesso non mi fare spiegare, tipo il rap, no? Espressione. Ah, ok, bello. Sì, ma siccome non c'è Gildo, che lui di solito ha il touchpad per mandarmi la base, no? Io scelgo la base e su quello faccio il freestyling. Wow. Tu che dovresti avere il mio telefonino vecchio, quello faceva anche da... Oh, c'è il tuo tablet, c'è il tablet, mi puoi mandare la base tu? Sì, certo, io ce l'ho qualche base bella, a me piace il funk. Ah, ma fai freestyling anche tu? Sì, sì, aspetta un attimo, trovo subito un attimo la base e mo te la mando. Ah, ce l'hai? Sì, aspetta. Ma no, fai anche tu freestyling? Sì, allora. Questo è stimolante, no? Ok, vai che te la mando. Vai. All right. Joris. Ciao, Beto. L'altra notte ho fatto un sogno, c'era un megafono e un tutto il giorno e diceva: adesso mi presento, bambino Alberto! Bambino Alberto! Lo sai che un giorno mi sono svegliato, mi ha chiamato un mio amico ed era dentro in un prato, mi ha chiesto: vuoi facciamo una partita a pallone? Ho detto: chiama Alberto, ma quello è un pallone. All right! Non è mica finito, perché ero del Milan, ero il capitano della squadra, c'erano tanti tutti quanti? Perché c'erano i tifosi, c'erano quegli altri. Ma tu non è che eri la palla. Adesso mi hai rotto con la storia della palla. Io ero il capitano del Milan, avevo la maglia a strisce rosse e nere, ma poi mi sono svegliato e sono andato a bere. E ora, bambini, e tutti a casa. Macchina, camion, due macchine, la roulotte. Sì, camion, ce li ho gli occhi, camion, Drago, lo vedo che ci sono le macchine, i camion, le roulotte, lo vedo. E vedi anche che non ci lasciano attraversare. Sì, vedrai che però fra poco attraversiamo, tra poco, su. Tra poco, figura, sei ancora lì che ci speri. Tra poco qualcuno si ferma. Ma tu sei un illuso, sei. Te l'ho già detto, è impossibile che non ci sia mai un attimo di tregua. Deve esserci, è la legge dei grandi numeri. Mai nessuno che ci venga a prendere. Per forza, i nostri nonni ormai sono tutti morti. Beh, ma uno straccio di babysitter? Ti piacerebbe, eh? Se fossi io il baby della situazione, sì. Invece niente. Ma non lo vedono che c'è un asilo? Cioè dovrebbero rallentare di default. I bambini li vengono a prendere in macchina. Allora facciamoci dare un passaggio. Sì, ma figurati, due adulti dall'aria poco raccomandabile, soprattutto tu. Non ci faranno mai salire sul SUV, dai. E allora? E allora aspettiamo. Ma che palle! Puoi sempre far finta di essere incinta. No, lasciamo stare. Fai finta di essere incinta. Ma no, dai. Perché no? Guarda che le donne in stato interessante le fanno sempre attraversare. Vabbè, ti metti la parrucca. No. Dai, no, ce l'ho sempre qua per te. Dai. Adesso tira fuori bene la pancia. Tanto ne hai, lì, gonfia sta pancia. Oh, là. Così. No, adesso basta. Ehi. Basta. Sei già in uno stato interessante. Fermo. Oh, non ce la faccio fermarmi. Drago, vedi? No, ma ti stai alzando. Aiuto, capa, ma stai giù. Volando via come un palloncino. Almeno attraverso, ciao. Vai. Il più grande suonatore. TV del mondo. Però adesso dovresti anche fare il riannuncio suonando il kazoo. Prova. Chiedo sì, la radio suonando il kazoo.